A partire dal 6 marzo, nell'ambito di Boom Crescere nei Libri, l'Accademia di Belle Arti organizza il ciclo di incontri e mostre a Babbo Boom. E io sono qui per parlarne con Emilio Varrà, docente e fondatore di Amelin. Ciao Emilio, buongiorno, benvenuto. Ciao, ciao a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito. Partiamo proprio da questo ciclo di incontri. Saranno 5, saranno tutti tenuti all'interno dell'aula magna, ovviamente, dell'Accademia di Bologna. Chi saranno, Emilio, gli ospiti e le tematiche che poi affronterete insieme a loro? Certo, allora si parte con un ex studente lunedì 6, un ex studente dell'Accademia, Majid Dita, che esce per Canicola Edizione con il suo primo libro, con un esordio, Nato in Iran. E questo è anche un incontro interessante perché è uno dei rapporti fertili che esistono tra l'Accademia e la Fiera, è proprio quello anche di avere un palcoscenico, diciamo, un'occasione per mostrare quelli che sono la professionalità degli studenti o delle studentesse che sono uscite qui in Accademia. E quindi sono tanti gli editori che pubblicano i nostri ex studenti o studentesse. Canicola ha una storicità in questo molto molto forte, una collaborazione con l'Accademia, quindi questo incontro è significativo proprio anche per una delle funzioni principali che c'è nel rapporto tra Babbo Boom, chiamiamo, no? Tra l'Accademia Boom e la Fiera del Libro per ragazzi. Alla fine di questo incontro, alle 6, Majid Bita inaugurerà anche una mostra che sarà sempre negli spazi dell'Accademia, in contemporanea ad altre due mostre che invece sono due mostre, una di illustrazione che si chiama Miss Orange e Mr. Blue e una invece di fumetto che si chiama Going Places, che sono invece frutti di lavori che vengono fatti proprio nelle nostre aule, quindi classi e laboratori che chiaramente lavorano con i nostri docenti e che renderanno visibili i loro lavori per i visitatori nazionali e internazionali della fiera. Martedì invece, 7 marzo alle 11, abbiamo una delle due sicuramente tra virgolette star internazionali che l'Accademia accoglie. Si tratta di Rebecca Dotremer, che parlerà con Daniele Brolli e Ilaria Tontardini e che ragionerà sul rapporto tra riscrivere e illustrare, qual è la relazione molto molto stretta tra questi due tipi di operazioni. La stessa giornata, alle 4:30, invece sarà ospite Sara Mazzetti, che è stata anche ospite di workshop qui all'Accademia di Belle Arti, è una fumettista, è una grandissima illustratrice, copertinista e per Canicola Edizione ha prodotto un libro fumetti sperimentale perché mescola illustrazione, fumetto, fotografia, collage, dedicato a, il titolo è Un altro Morandi, quindi al nostro Giorgio Morandi, che tra le altre cose è stato docente anche qui nell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Giovedì 9 abbiamo un doppio incontro, uno alla mattina e uno al pomeriggio. La mattina saranno protagoniste due delle più importanti autrici di fumetti per bambini francesi, Camille Jourdi, che è anche vinto dei premi ad Angoulême, e Lolita Sechan, che parleranno di quanto è difficile, di quanto è prezioso fare dei bei fumetti anche per i lettori e le lettrici più piccole. E chiude questa rassegna il pomeriggio alle 4, sempre di giovedì 9 marzo, Beatrice Alemagna, che è, diciamo, la seconda star internazionale, per quanto sia nazionalissima, nonché bolognese di origine, ma insomma sicuramente una delle illustratrici più conosciute a livello internazionale. Tutti questi autori, ospiti, dico solo questo e poi giuro che mi fermo, sono anche protagoniste di mostre, se non in Accademia, all'interno della città. Perché Beatrice Alemagna ha una mostra promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, Camille Jourdi e Lolita Sechan saranno ospiti nella nostra associazione Amelin, Sara Mazzetti avrà una doppia mostra a Casa Morandi e al Mambo e Rebecca Dotremer invece sarà ospite di una mostra ad Alchemilla. Quindi diciamo è interessante il fatto che ci sono degli incontri, ma questi incontri sono anche un modo per fare il punto su delle cose che poi si possono vedere nella città. È un bel dialogo, un bel modo per mostrare il rapporto che c'è tra la scuola e la città. Un programma ricchissimo, appunto quello che ci stavi elencando, e tra l'altro so che ci sarà anche un omaggio particolare a un genere di grande tradizione letteraria e anche cinematografica, ovvero il genere noir, che appunto omaggerete come tema scelto per un'altra mostra. Bravissima, bravissima, infatti è proprio così, nel senso che c'è una tradizione, anche questa ormai da più di 10 anni, la nostra accademia collabora con tutta una serie di altre scuole e accademie europee e non solo europee, e l'Alliance Française durante la fiera del libro per ragazzi, la Children's Book Fair, ospita sempre una mostra che è una collettiva del lavoro parallelo di studenti e studentesse in tante scuole e in tante città. Quest'anno si chiama All the Color of Noir, la mostra, ed è dedicata, come dicevi, proprio al noir, e inaugurerà mercoledì 8 marzo alle 18, e si potranno vedere, al di là dei lavori dei nostri studenti e studentesse, anche quelli di Caen Cherbourg dalla Francia, di Amburgo dalla Germania, di Barcellona dalla Spagna, da Kyoto Giappone, e Tel Aviv Israele, e Cambridge Gran Bretagna. E quindi, diciamo, è un bel modo di confrontare i lavori che facciamo e anche di far incontrare poi ragazzi e ragazze da scuole diverse, e possono nascere collaborazioni, incontri, un'altra cosa molto fertile da fare, a mio avviso. Io, Emilio, ti ringrazio veramente per averci raccontato a Babbo Boom, e ricordo ancora una volta che partiranno dal 6 marzo in avanti tutti questi incontri meravigliosi. Grazie mille, Emilio. Ci aspettiamo. Ciao, grazie a voi.